perché attenzione Gianmaria Gianmari attenzione Gianmaria Mari! E che? Buonasera a tutti! Aspetta, buonasera! Aspetta, giacciamoci! Cosa c'è? Illumina, cosa c'è tu? Cosa c'è? Che danza la giamendi di? Accesa adesso, Accesa adesso tu! E ho già fatto! Andemmo, beh, andemmo! Dai, dai! E allora, noi andremo già a vedere mai vado! Caro andiamo a fare non dici che non ci siamo più uiuia chi sa che passa se ne può passare un'altra io non mi preoccupo per niente so, pare padre che si preoccupa andiamo grazie a Maria. Il sabava. Andiamo, Gio Mari. Andiamo. Cassa. Buonasera. Dai, sono andato a salutarvi che sono a mangiare che mi devo fare l'antibiotico. Il dentista andato, sì. E a Gio Mari è andato in gioco, guia. Adesso devo guarire, ci vorranno 2 mesi, dai. 2 mesi, 2 mesi e 3 mesi. Stai messo a fare il toro, no, le giapponce tutti loro e no, ti problemi, stare dentro, vero tu? Tu le vai di nato, non oggi di là. A me mi sono scende da Rivossi. Me ne sono pigliato il burro da Ribusciaccari, penso un poco. Ma ha pigliato l'antibiotico no? Adesso vado a prendere, alle 7:30 lo devo prendere, là, vengo subito, riprendi Gio Mari, torno subito. D'accordo. Allora, adesso, cosa che hai combinato oggi, illuminami. Nuda che nuda, ma cosa vuoi che hai già combinato? Ci ho fatto accompagnato con la bicicletta a cura. Stava in spesa, poi mi sono diventato i nonni. Adesso può andare nel torrente, i nonni, i trento. Ma così senti il movimento. E non ti si piglia un sogno, sto. E là ci sono sempre perfetti. Non sappia cosa va, beh. Vediamo da che fa. Vabbè. Sa che cosa bisogna fare, no? Che è una cosa seria, non si riesce a fare niente. Ma sono 10 mesi, anzi no, ma sono mezzo di maggio pulito la stufa, una mezz'oretta, la giubulita e la è pronta a usare. Che cazzo la buri la stufa? Io la buro, la diceva, un bazzaro sì, un bazzaro no. Ora sì, ora di nuovo. E tu ogni cazzo? Ogni ghida lo voto. Cazzo la ghida? Non mi metto più troppo di che gira al lavoro. No, ma ci ho visto che chi gira venne poco. No, non ce n'è molto. Se venne, sì o no, un paio d'etti e pensi troppo. Certo, allora lo attendi, cazzo qua. No, questa non ne fa molto di cenere. A stavolta mi la via da luna accesa fino alle 11 di notte. Chisina non ha fatto un bel. Forse si potrà perdersi allora. Ma me allora che mi può scattare però quasi si deve sentire già lo faccio già già una vicina di bocca poi una volta lo vedi con un bicchiere un disposizione già la che gira dritto dal tubo, capito? Quindi fai un bicchiere e una volta lo vedi labbro e lascia subiego. Vedi, quello è... Io ho controllato quello che c'ho dietro la stufa, c'è quel bicchiere lì, ho controllato ed era quasi viudo. Mi costruma poco, mi fa di poco, così che la pezza. Quindi vabbè, io una volta la vicino, una volta no, così che un tanto la... Stava già, poi, stava già, per cui è sempre pulita, lucida, lucida. Ma questa ne fa poco, poca di cenere ne fa. Io vedo che quando do una volta ragghetta, però sta provendo ogni due giorni. Ma invece si prende una volta ragghetta e vedo che cenere ce n'è poco, non ce n'è molto. Adesso stamattina gli ho passato un po' la spazzola dentro per togliere un po' questo coso bianco e adesso l'ho pulita un po'. Ehi, dovrei andare a capo questo bruciatore, no? Sì, c'è una piastra dove ci sono le alette di raffreddamento dove passa tutta l'aria calda e ogni tanto mi tocco anche quella placca anche lì con il pennello uno grande uno piccolino e anche quello lucido, però ripeto quello faccio una volta alla settimana sì. Ma poi il pennello io lo appunto col pennello metto il giornale in terra per farlo dentro e mi butto fuori la cenere ma poi faccio un bel bandello e mi sa che mi fa la buona la stira tutto la stira a polvere Io gli ho passato la spazzola e ho giocato tutto il coso bianco che vira adesso fa il fiù o prima di accendere chiamo a loro e la faccio pulire da loro e vedo cosa puliscono. Non ho chiamato mai, io non li ho chiamato mai, alla sera di mezz'anno me la pulisco sempre io. A pulire proprio quando finisco di accendere, allora a marzo quel periodo che le robe non si accende più, allora la smonto tutta quanta e la pulisco piano piano, le tolgo i tubi, pulisco anche i tubi e dopo la smonto tutta quanta e così via. Io faccio quel lavoro, non ti spetto. Ma io non lo so questa come è fatta. Quell'altra che c'avevo dentro non si poteva pulire, si doveva pulire soltanto da dentro nel bruciatore, sopra un po', per entrare il coebo. Ma no, non ho fatto altro. Questa c'è la camera dove brucia, c'è la fiamma toccata, poi c'è una piastra alla parte superiore e più corta, capito? Che c'è le rimane aperta lì. E poi all'interno ci sono dei quattro tubi verticali. sarebbe dove proprio separa tutta la frigide della suppa, capito? E la manda sia a chiudere il carico su un po' che non sta su, rimane nel bicchiere, capito? E una volta a mese tolgo il bicchiere e me la pulisco. Ecco, io ho smolto. Vabbè, magari la tua sarà più bella, e qui magari è più difficile, boh, non lo so. Sì, io sono un pochetto diverso perché c'ha serbatoio dentro, motore dell'acqua che fa girare e tutto il resto, poi non lo so loro come la puliscono, lo devo far vedere come la puliscono per pulirla bene. Ah, è fatta la tua idro, è fatta diversa, è beccata, è cambia molto, è per cui, ma non c'è niente, non si crede che c'è, perché è il calore che fa riscaldare l'acqua, certo, capito, dove spegne la fiamma, lì c'è il serbatoio che scalda l'acqua, capito, e per cui non penso che sia stato difficile, capito, ma se tu la guardi, quando stanno pulendo, guarda come fanno loro e dopo c'è la pulizia, perché poi l'ho staccato i soldi, forse basta 70-80 euro e più. Sì, vabbè. Vabbè, se in caso del corso devo vederla, che non so come con i pugni rimani io ne tolgo tutta la forigine da fuori, poi ogni tanto abbaido col bicchiere, ogni mese mi abbaido la tazza di fura. E ne tolgo lo svuoto. E a quanto la metti? Quando è accesa? 1, 2, 3 o 4? Ma l'hanno messa loro, me l'hanno messa a 5, me l'hanno messa di potenza, me l'hanno messa, che sto provando così. Ma è per quello l'hanno messa a 5, perché c'è la caldaia. È chiaro che dovrebbe scaldare di più, ma io c'ho, se fa 2, 1, 2, 1, 2, certo, e arriva a 20, 22, 23 gradi, capito? Questa sale sino a 23 gradi sale, 23 gradi me l'hanno messa, quando arriva a 75 si abbassa e poi ritorna a ricominciare. Vai fatti allora, quando raggiunge una certa temperatura, allora c'è il termostato e si abbassa, dopo un po' che raffredda un pochettino, allora riparte di nuovo, capito, a riscaldare, e è così, sono tutti più o meno sono tutti così. Certo che quella a 5 ha necessità di un calore più forte perché c'è la caldaia dell'acqua. Io la mia è normale, per cui già fa 2, per cui a 20, 21, non di più, capito? Arriva. Perché, vabbè, e a voi a casa. No, già. Allora sai che il pellet ha aumentato di 50 centesimi, ha aumentato. Posso immaginare che ha fatto. Sì, io faccio anche la provvista in estate, capito? L'avevo preso più di 45 sacchi, l'avevo preso. Per cui la pago di meno, capito? In questo periodo è chiaro che aumenta lo stesso, perché magari c'è freddo, accendono di più e ne consumi, allora quelli ne approfittano, capito? E aumentano. E poi sono loro figliati. Sì, aumenta l'ania. Vedere la vai a 6 a che cosa? A 5,99. Il più basso è 5,99. No, ma non mi ricordo quanto l'abbiamo preso, tanto l'abbiamo preso la pelle. a Chico, a Chico l'abbiamo presa lui, no, noi l'abbiamo presa a Chico e rispetto l'abbiamo presa in estate. L'ultima volta che l'avevo comprato l'ho pagato a 5,25, l'avevo pagato, ora è 5,99 quello che prendo sempre. A 5,99, ma la sorte è nato tutti così, sto più o meno, sono tutti così, sto tutto aumentato, allora ragazzi, no, io ripeto, quando so che c'è un prezzo basso, allora vado e me ne compro, anche se faccio un viaggio con la macchina, certo, me ne prendo, capisco. Questa estate mi obbligo un burro tantissimo, mi faccio un rogo, me lo pongo in cosa, me lo pongo. Tanto io l'accendo la sera, l'accendo, non lo sto accendendo il freddo. Pertanto c'è un riscaldamento condominiale. Alle 9:30, 9:20, 9:15 sto accendendo la stufa. Perché fai più quello come si spegne, c'ho la stufa accesa. Questa è il riscaldamento al sole. Certo. È già un'altra cosa. No, io l'accendo solo la sera. Durante il giorno lo accendo. Io accendo sempre alle 5, alle 5 e mezzo, oggi ho acceso alle 5 e mezzo passate, io alle 5, alle 5 e mezzo l'accendo fino alle 10 e mezzo, alle 10 e mezzo la spengo. Va bene, a Puglia, via di Garori, no, io la tengo sino alle 11 accesa, la tengo. E così mi riscalda, mi tiene caldo, la casa mi tiene calda. È chiaro. Ma voi avete più caldo ci avete, perché usate anche quello con il vino, per cui è chiaro, le camere sono più calde, mentre qua io non ce l'ho l'impianto, per cui anche se lascio le porte aperte, se ci sono i spifferi, tanto pure le camere non entra, però sull'abito segue la temperatura sempre abbastanza buona e per cui un po' entra, capito? Infatti già è così. No, io lo accendo alle 9:15 e sino alle 11 e mi tiene la casa almeno calda, me la tiene sino alla mattina. Io la mattina lo accendo mai, perlomeno non lo accendo mai di mattina, perché il mattino magari allora la sera quando svegliarsi apre tutto per finestre e entra l'aria e cose si chiede le 10 e mezzo ho chiuso tutto e rimane normale la temperatura, però la sera già la scendo lassù. Poi qualche volta per esempio quando a pranzo se c'è un po' di fresco ci sono a pranzo, ma c'è il condizionatore per cui va bene così, capisco un'oretta e va bene così, è andato caldo a caldo. Infatti anch'io sto facendo così. La mattina quando mi alzo dopo che ritorno apro le finestre, faccio arieggiare un po' per cavarsi l'ubiaco che è rimasto. E poi verso mezzogiorno e mezzo scendiamo il climatizzatore in cucina. Perché la mattina deve cambiare l'aria, bisogna lasciarla aperta, almeno fino verso le 10, anche le 10 e un quarto, qualche volta ce lo dimentichiamo anche vicino a qualche finestra, per cui deve cambiare l'aria, capito? Perché la volta, noi stiamo dormendo la finestra aperta, certo. Poi la volta quando ci corichiamo apriamo in questa camera a finestra e la abbassiamo così, poi dentro il letto non ce l'è preso, lo prendo, non lo sta facendo, è un po' di dignità, ma prendo lo scheletro, capito? Per cui quando gioco tra il caloretto, anche se lo manco l'ha detto, no, ecco, capito? Sì, sì. Ma che rimane il dottor Giarrado? Era a casa che rimane un po' caldo fredda, ma già tiene un garore. Se vuoi solo il paraspifferi nella porta d'ingresso, buru. Stanno entrando aria fredda. No, vedi che... È un buio, non lo so, rimane a un buio, capito? Rimane chiusa magari la porta a destra, ma quella sinistra è appoggiata, per cui l'aria entra, capito? Per cui certo, se c'è vento è chiaro che va chiuso, ma se non c'è vento l'appoggio di lì e basta, capito? Ma insomma vento, e il vento non le sta facendo, per cui è sempre a un buio come a fuori. Sì, io sono arrivati, arrivati quando sono riuscito, Grugani, ve l'ha vento un po' di vita. Vabbè, si cagge inteso. Sì, vabbè, vedo. Ma io parlo la notte, non so, dopo le 11, che bello, capito? Prima... Adesso è tutto chiuso, adesso è tutto chiuso, però anche in cucina, per dire, nella finestra l'apriamo un po', e anche in questa cameretta, dove mettiamo con i tabloni, gli altri due sono chiusi, ormai va bene così, la faccio purificare le camere, anche le marombe aperte, per cui entra l'aria. Certo, hai già ragione, perché bisogna farle cambiare l'aria sempre, capito, le camere. Ah, quello sì. Andate, visto già bisogna farlo. Io andate, potete ci aiutare pure, io vi giuro. Allora, una ce l'ho abbassata, ma mi ha dato questa sciaffura a Giarro. Certo, se c'è vento la chiudiamo lui, anche lui, certo, chiudiamo tutto. La zapparella mi pare 30 cm, la salomai, ma poi tra la luce, la chiaro buccio, vediamo, vabbè, ma nel buccio no, però lascio un po' sollevata la zapparella per trarre la luce, capito? E anche io, anche se no, mangiare, non me ne invece, per buccio. Faccio di camarella con un po' di alzata la tapparella e la tengo un po' io, un 20 cm alzata. Bisogna stare uscito. Vabbè, io chiudo là. Sto facendo cosa per cui la fermi. Sentiamo domani, dai, buon proseguimento, saluto di casa. A domani, Sì, ok, Giomari, ci risentiamo. Ciao Giomari, a domani.